Friuli nel mondo, 54esima trasmissione dedicata agli emigrati, ricordando Tita Marzuttini. Quindici anni fa, nel natale paese di Gonars, si spegneva Tita Marzuttini, che nella sua versatilità artistica manifestò tanto in musica quanto in pittura e in poesia l'amore per il Friuli. Quando i suoi occhi si chiusero per non rivedere mai più gli aspetti della sua terra, di cui si era reso interprete delicato e sensibile, era l'anno 1943. Un anno cruciale per tutto il mondo, dilaniato dagli orrori della guerra. Talché alla sua figura, la cui scomparsa suscitò vasta eca di cordoglio in tutta la regione, non poté essere reso l'omaggio che meritava. Ma il preciso debito di gratitudine che il Friuli aveva contratto con Tita Marzuttini è stato assolto quest'anno, il 22 marzo, in una serata in suo onore svoltasi nella sala Aiace del Palazzo Comunale di Udine. E alla solenne rievocazione era idealmente presente tutta la regione, dalle Alpi alla Laguna. In tale occasione, Friuli nel mondo ha registrato i momenti più significativi della serata. Fra i numerosi brani per violino, violoncello e pianoforte, con questo capriccio il Marzuttini è riuscito a valersi anche della tecnica per ottenere uno stupendo effetto. Ed ora il gruppo corale di Feletto ci fa ascoltare due delle più belle villotte uscite dal cuore e dall'ingegno del Marzuttini, La Stele e L'Is Ciampanis. In ciel eie une stele che brille di splendor, di tuttis la plui biele, la stele dall'amor. Cosponte la matine, la stele va lontan, ioi dis, mandi di nine, si vio darin doman. Une volte voi Ciampanis, nizzulan sul Ciampanil, mi sunavis l'allegria dall'amor, plui dolz de mil. E cumò, se mi chiantaiso, ves mi par un'altra vos, assunaimi l'agonie, soi la sade dal muros. Don, din don, din don, din don, din don, don. Quest'ultimo brano marzuttiano per strumenti a plettro è una romantica serenata che vuol sussurrare all'amata dolci frasi d'amore. Questa, cari fratelli in ascolto, la celebrazione che il Friuli ha tenuto a degna esaltazione del nobile cantore della sua anima, accomunando anche voi nell'omaggio dei friulani alla figura del poeta e del musicista. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 54esima trasmissione dedicata agli emigrati, adattamento di Ermete Pelizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio, Eligio Ciriani, Danilo Portegrandi, Carlo Zanuttini, il gruppo corale di Feletto diretto da Armando Del Fabbro e il circolo mandolinistico Tita Marzuttini diretto da Angelo Prenna. Musiche di Tita Marzuttini.